guardo intorno nella stanza con lo sfondo blu, mentre da fuori la finestra la tempesta lascia spazio ad un silenzio preoccupante, che dal frastuono nasce tutto, dalla calma seppure apparente nasce solo l'incertezza. Come guardare i pensieri portati distanti e veloci dal vento, ma che altrimenti cadrebbero sul cemento. Scrivo canzoni che vorrei tanto non cantare più, per non sporcarle col sudore del presente che mi sta intorno, per proteggerle da quello che son diventato, o forse solo per socchiudere la porta a ciò che è stato. Elisabetta stavolta è diverso, una canzone che ascolterai sotto le stelle che hai dipinto sul soffitto. Poi i miei versi dal tuo stereo forse usciranno un po' ingialliti, più vicini a un bel ricordo che a tutte le cose che vorrei dirti. Ho paura di alzarmi domani e di capire che il cuore si è spento. Ho bisogno che tu sia il mio argomento. Guardo la sabbia sulle spalle mentre dormi, mentre fai finta di dormire su questa spiaggia di Romagna, e vorrei tanto farmi un giro nei tuoi sogni, invece di inventarmi un testo in mezzo al blu di questa stanza. E forse tardi, è finito il tempo, però io te lo chiedo lo stesso. Hai mai pensato di spezzare il nostro silenzio? E apro i cassetti alla ricerca di qualcosa che hai lasciato, di parole lasciate invecchiare sopra ad un foglio accartocciato, come quando le lacrime uscirono che già si reggevano a stento. Ho soltanto bisogno di questo momento. E le lancette si rincorrono più lente, o perlomeno è quel che sembra qui a Firenze, Campo Marte. Vorrei tanto rincontrarti a luci spente, per non confonderti con quella ancora qui da qualche parte. Mentre il silenzio della stanza si fa sempre